1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, 7:17 minuti, cari ascoltatori, siete svegli, siete attivi, siete già produttivi. Allora, amici debosciati miei, fate bene. E se no, ben arrivati, ben svegliati, ben attivati, con le vostre colazioni interminabili. Siamo pronti a leggere i giornali, i quotidiani che trovate in edicola, hanno tante notizie interessanti. Oggi parleremo poi di Renzi, il dopo Leopolda, l'attacco anche ai giornali. Avremo Ferruccio Di Bortoli oggi ai nostri microfoni, avremo anche Chicco Testa insieme a Oscar Giannino. Eccoci qui dalle 8:15 ovviamente. E con le vostre telefonate anche all'800 24 00 24, centralini aperti dalle ore 8. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 15 dicembre, i titoli intanto e le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre sul petrolio sotto i 35 dollari, borsa in calo, Milano meno 2,4% ieri a Piazza Affari. Mentre la vicenda Banca Etruria ancora tiene banco al Corriere della Sera, Banca Etruria vertici indagati per il dissesto, Repubblica sfiducia alla Boschi, lei non mollo. Il Messaggero, Banca Etruria, indagati i vertici. Per il quotidiano Libero, tutti i giornalisti di Banca Etruria. Sorpresa, c'è un'ignota rivista dell'istituto con grandi firme del Corriere, ma anche del Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano, avevamo una banca, nel dissesto della Popolare dell'Etruria, le colpe della vigilanza e del mondo renziano. Il Giornale invece, banche De Benedetti, vertice dei PM. Confermata l'indagine, rivelata proprio ieri dal Giornale, sugli acquisti sospetti dell'ingegnere di azioni delle popolari. La Stampa invece si concentra sui migranti. L'Unione Europea avverte l'Italia, impronte anche con la forza. Così anche Avvenire, il titolo di prima pagina, impronta di forza. Ecco che allora voglio partire e approfondire proprio da qui, perché mi ha molto incuriosito questo titolo che trovate su tutti i giornali. L'Unione Europea avverte l'Italia sui migranti, dovete utilizzare tutti i metodi per rilevare le impronte. Si è scoperto nei giorni scorsi proprio dalla Commissione Europea che due immigrati che arrivano su tre sfuggono al controllo, al rilevamento delle impronte. Ecco che allora l'Unione Europea attacca. E tutti i giornali lo rilevano. Il quotidiano Avvenire lo mette in prima pagina, come detto, la cronaca pagina 6, Giovanni Maria Del Re e Daniela Fassini, impronte con uso della forza, l'Unione Europea attacca, l'Italia risponde, prelevare le impronte ai migranti irregolari anche usando la forza. Questa è la richiesta perentoria giunta dalla Commissione Europea in un rapporto che sarà presentato oggi e che rilascia una pagella piuttosto negativa all'Italia, a meno di una settimana dall'avvio della procedura di infrazione per insufficiente prelievo di impronte digitali ai migranti. È un documento che, tra l'altro, richiede di accelerare sul fronte degli hotspot, rileva problemi sui migranti, troppi pochi per essere, possono essere redistribuiti in Europa. Questo testo di 10 pagine, che verrà, ripeto, presentato oggi, mette dunque dei punti nelle piaghe del sistema Italia per quel che riguarda la rilevazione delle impronte. L'Unione Europea, l'Italia, impronte anche con la forza, è il titolo che ricorre per la maggiore. Tra l'altro è l'anno questo dei migranti, come racconta Repubblica. Dai naufragi ai muri non sono mai stati così presenti nei telegiornali. L'osservatorio Demos ha fatto un'indagine di quanti articoli, quanti servizi, quante pagine sono state dedicate a questo tema. Ebbene, il 2015 è proprio considerato il loro anno. Tra l'altro proprio nel giorno in cui la Merkel ancora ha ribadito dalla Germania l'invito a restare uniti, soprattutto in Germania ma anche in Europa, solo così ce la faremo a gestire tutta la vicenda dei migranti. Sulla questione dei migranti, attenzione, c'è una notizia che riportano tutti i giornali e che su Libero ha maggiore risalto, e riguarda una persona che è stata arrestata a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Alberto Samonà racconta, pagina 12, arrestato in Sicilia un siriano dell'ISIS, si fingeva profugo. Lo hanno fermato. All'interno del suo telefonino hanno trovato messaggi abbastanza inquietanti. Uno è questo: Allah è grande, ma il califfo dell'ISIS di più. E come dire, è stato fermato. Era sbarcato in Sicilia lo scorso 4 dicembre, è stato arrestato a Pozzallo. Ora, bene, bene che sia stato individuato e arrestato. Un po' meno bene il fatto che, come si dice, purtroppo rischiano di infiltrarsi in casi sporadici anche tra le persone che invece fanno i viaggi della speranza e hanno legittimamente il diritto di essere considerati profughi. Oh, veniamo alle cose italiane che riguardano la categoria che in questo momento sembra molto in subbuglio, i medici. Perché sulla legge di stabilità c'è una grande discussione. È anche un giallo, perché era stata accennata la possibilità nei giorni scorsi di attuare un piano straordinario di 6.000 assunzioni di medici per coprire quindi le carenze derivanti dal blocco dei turni. C'è stato presentato un emendamento del governo che però è stato bocciato. Perché dopo l'entrata in vigore della direttiva europea che impone al personale sanitario di non sforare il numero di ore lavorative, dunque fare i turni e non sforare assolutamente per l'orario della turnazione, ci si era impegnati in un piano straordinario di assunzioni di 6.000 unità. Ma la Corte dei Conti ha fatto sapere che quei risparmi non sono quantificabili, dunque non si possono utilizzare i risparmi che erano stati identificati per assumere nuovi medici e infermieri. Tutto rimandato, ovviamente i sindacati dei medici e degli infermieri in subbuglio protestano. La stampa racconta che, per esempio, storia pratica, per questa nuova legge che impone di non sforare l'orario dei turni dei medici, sono saltati all'ospedale Brozzu della Sardegna, a Cagliari, sono saltati dei trapianti, perché il turno era finito in sala operatoria, il trapianto di reni non si può fare. Succede questo, che è un allarme, tra l'altro, che i medici, soprattutto i trapiantologi, quelli che fanno le operazioni molto lunghe, avevano già lanciato recentemente. Il chirurgo finisce il turno, salta il trapianto, storia concreta che Nicola Pinna racconta in prima pagina della Stampa da Cagliari. E i tanti che da mesi attendono il trapianto in queste ore pregano di ricevere quella famosa chiamata. È pronto l'organo, ma le speranze si scontrano con le nuove regole sui turni di lavoro di medici e infermieri. E dunque salta l'operazione, non è la prima volta a Cagliari per le nuove norme europee. C'è il dibattito di chi dice: ma il riposo non è un obbligo, il paziente viene prima di tutto. C'è chi dice: no, il riposo invece va fatto, perché immaginate un medico che sta ore e ore in sala operatoria, poi ci sono i rischi di stanchezza e i rischi annessi e connessi di errori. Per la verità, Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, intervistata da Repubblica a pagina 27, almeno sulla questione assunzioni, cerca di buttare un po' di acqua sul fuoco, perché dice: sono stati trovati i fondi per assumere i medici, proprio nel giorno in cui tutti i giornali dicono che queste assunzioni sono saltate. Risorse per dottori e infermieri sono state trovate dai risparmi delle regioni. La norma poteva saltare. Dunque Beatrice Lorenzin su Repubblica, intervistata da Michele Bocci, ne parla come di un problema risolto, quello della mancata assunzione dei medici. Insomma, ce l'avete fatta? Sì, abbiamo cambiato il sistema alla base delle assunzioni, non più legate alla legge sulla responsabilità dei medici, cioè alla riduzione della medicina difensiva, ma i fondi arriveranno dai risparmi generati da altri provvedimenti su appropriatezza, centrali uniche di acquisto, piani di rientro delle ASL in deficit. Per una notte era tutto saltato, mentre ora siamo certi che i soldi arriveranno e dunque si potrà assumere, e si potrà assumere da subito per rispettare la norma europea. Quindi c'è un giallo, dicevamo, sui giornali con Beatrice Lorenzini, il ministro, che dice: è tutto risolto, i soldi sono stati trovati. Staremo a vedere. In legge di stabilità, per la verità, c'è un altro giallo che viene raccontato dalla Stampa a pagina 8 e riguarda direttamente anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché si parla con Giuseppe Salvaggiulo di una norma ad hoc, questa è l'accusa dell'opposizione, norma ad hoc per l'aeroporto di Firenze, che racconta la Stampa, guarda caso, è gestito da Marco Carrai, che è un uomo fedelissimo di Matteo Renzi. L'opposizione parla di manina in azione nottetempo. Il motivo è un emendamento firmato PD Nuovo Centrodestra alla legge di stabilità che sblocca il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, di fatto cancellando tutte le procedure di valutazione ambientale, paesaggistica, urbanistica, con una sorta di autocertificazione. È una vicenda abbastanza complicata, che riguarda rapporti anche tra Firenze e Pisa, racconta la Stampa, tra i rapporti tra gli aeroporti di Firenze e Pisa, perché si racconta che molti, anche fiorentini, preferiscono per la questione logistica partire e atterrare da Pisa. E allora ecco che Firenze, per riguadagnare il primato sul territorio in fatto di aeroporti, da anni chiede un ampliamento. Ampliamento, tra l'altro, gli aeroporti di Firenze e Pisa sono gestiti appunto da una società affidata a Marco Carrai, uno degli uomini più legati a Renzi. Ampliamenti dell'aeroporto di Firenze che però si sono scontrati sempre contro le burocrazie, contro i no. Ecco che interviene l'emendamento incriminato. Non servirà più il progetto definitivo, verrà bypassata la valutazione di impatto ambientale, non bisogna più avvisare i privati che subiranno gli espropri dei terreni, saranno cancellati tutti i passaggi urbanistici. Questo, per la Stampa, prevede questo emendamento. Il docente Marco Ponti insegna economia dei trasporti al Politecnico di Milano, dice: non ci credo, così si potrebbe costruire una nuova pista nel centro stesso di Firenze. Insomma, la polemica è questa: norma ad hoc per Carrai, scontro sull'aeroporto di Firenze, lo leggete sulla Stampa a pagina 8. Ma siamo all'articolo che vi fa tenere le mani sul volante. L'articolo che mi fa più incazzare della giornata, a pagina 21, ville e bed and breakfast coi soldi dell'8 per mille, l'ex vescovo nella bufera. Alessandra Ziniti racconta che la procura di Trapani sta indagando sul patrimonio dell'ex vescovo Francesco Miccichè, vescovo di Trapani fino al 2012. L'accusa è questa: si sarebbe intascato i soldi dell'8 per mille della curia per bonifici, giroconti, false fatture, conti che levitavano. Insomma, si sarebbe intascato 2 milioni di euro. Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il ministro Boschi dell'informazione. Dai, tacci dentro, dai! E allora, alle 7:34 minuti, certamente il ministro Boschi in questi giorni è molto molto presente sui giornali. La vicenda è quella della Banca Etruria. Allora, intanto l'indagine, c'è l'indagine per conflitto di interessi sugli ex vertici dell'Etruria. Fiorenza Sarzanini racconta sul Corriere della Sera, pagina 8, sono accusati di aver sfruttato a fini personali il ruolo che avevano all'interno dell'istituto, averlo fatto per godere di finanziamenti che altrimenti non avrebbero potuto ottenere. Questo è il senso dell'indagine nei confronti dell'ex presidente di Banca Etruria Lorenzo Rosi e l'ex membro del CDA Luciano Nataloni, accusati da Arezzo, dalla procura, di omessa comunicazione di conflitto di interessi. È il primo passo, ovviamente, dell'inchiesta che si preannuncia molto, molto corposa. Ma chiaramente la questione banche, che è ben sviluppata sul Sole 24 Ore, intanto su quello che succederà, ci sono sempre due profili. Quello che succederà per le persone che hanno perso i loro soldi, l'arbitrato, i casi per caso, e sul Sole 24 Ore puntualmente ogni giorno c'è scritto esattamente quello che si sta studiando a livello politico per risarcire tutto, o meglio in parte, le persone che hanno perso il denaro. E poi c'è di pari passo la questione politica, puramente politica. Nel mirino dell'opposizione c'è appunto il ministro Maria Elena Boschi, l'abbiamo detto varie volte, il motivo, e cioè il padre e il fratello di Maria Elena Boschi lavoravano a Banca Etruria con ruoli dirigenziali importanti, il padre era vicepresidente, lo è stato per 8 mesi. E allora, mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. Lei reagisce così, come raccontano tutti i giornali, in maniera gelida. Discuteremo in aula, voteremo e poi vedremo chi ha la maggioranza. È più interessante però il retroscena di Francesco Bei a pagina 2 e 3 di Repubblica, perché cerca di capire un po' qual è l'umore del ministro Boschi. E l'umore è questo: non mi spaventano, vado avanti, non ho mai lasciato le cose a metà. In vita mia, dice ai suoi il ministro, non ho mai lasciato le cose a metà, nemmeno un libro. Non sono una che si spaventa facilmente, non mollo. Appare insomma coriacea, non capisco le ragioni di attacchi così violenti e gratuiti, ma sono molto serena, il bene alla fine vince sempre. Questa è la posizione del ministro Boschi, che dice: risponderò a tutti, ma in aula. Così ha promesso ai parlamentari del PD che ieri hanno iniziato a interrogarla su come difendersi da questo attacco sferrato. Dunque si prepara alla difesa in aula. Ovviamente ci sono tutti gli umori dei renziani in questo retroscena, pagina 2 e 3. Molti tra i renziani iniziano a chiedersi se il tocco magico di Renzi non sia svanito, se insomma anche questo tocco di Remida, o comunque questo rapporto privilegiato tra Renzi e il paese, non sia comunque un po' oscurato, insomma, se non sia tramontata definitivamente la luna di miele tra Renzi e gli italiani. Questo si chiede a Repubblica in questo lungo retroscena di Francesco Bei a pagina 2-3. In assenza del padre, in assenza del fratello, il Corriere della Sera che fa con l'inviato a San Giovanni Valdarno? Intervista la madre di Maria Elena Boschi, e dunque eccola qua la madre di Maria Elena Boschi, che viene intervistata da Fabrizio Caccia, pagina 9. In questi giorni, dice la madre, ho scritto, si chiama, è preside dell'Istituto Comprensivo Marconi San Giovanni Valdarno, si chiama Stefania Agresti, dunque una professoressa, e dice: in questi giorni ho scritto vari sms a Maria Elena, che è stanca, turbata, soprattutto perché vede soffrire noi, le ho fatto coraggio, le ho scritto: tu devi andare avanti, noi siamo qui, non ti preoccupare. Ormai è un assedio, siamo dovuti andare a messa alle 8:30 e ci sono le telecamere nascoste dietro casa nostra. Siamo rimasti in casa, io e mio marito, tutto il giorno, domenica, a fare l'albero di Natale. Poi chiaramente il giornalista del Corriere cerca di avere informazioni sul marito, sui rapporti con la banca. Io non dovrei nemmeno parlare, dice la mamma del ministro. Anzi, non scriva niente, per favore, perché in famiglia abbiamo deciso che la linea è questa. E c'è una intervista di una pagina, per l'appunto. Senta, ma il dissesto di Banca Etruria è un fatto acclarato, professoressa? Tutti questi risparmiatori che hanno perso i soldi? Io vi dico che avrete delle sorprese. Così risponde la madre della Boschi. Per fortuna c'è un'inchiesta, ci sono le carte e vedrete che la verità verrà fuori. La verità è che noi, in primis mio marito, non abbiamo mai preso un euro dalla banca. Altro che finanziamenti alle nostre attività. E riguardo a tutti i soldi sperperati della banca, abbiamo sofferto quando abbiamo appreso la notizia e soffriamo per i risparmiatori che hanno avuto dei danni. Ma i fidi a cui allude lei sono del passato, erano già stati concessi prima e dovreste chiedere ad altri. E poi, insomma, la finale dell'intervista, un po' da Libro Cuore o Quotidiano Cuore, dice: c'era anche, sì, chiaro, mio figlio Emanuele, che lavorava in Inghilterra ma è stato chiamato dall'Etruria, lo hanno assunto quando, nel 2007, quando Maria Elena non era neanche ministro, dunque era preparato, e lì ha conosciuto Eleonora, mia nuora, si sono sposati e tra qualche mese nascerà la nostra principessina. Insomma, e d'altronde su questo ovviamente tanti tanti auguri. Pagina 9 del Corriere della Sera parla la mamma di Maria Elena Boschi, che diventerà presto nonna. La vicenda Boschi ovviamente è un po' su tutti i giornali. C'è anche la questione di Renzi che attacca gli stessi giornali. Renzi viene definito dal Corriere della Sera, da Repubblica, come un po' in difficoltà, con una luna di miele con gli italiani un po' finita, un po' adombrata. E Renzi viene definito da Libero addirittura nel bunker, colpa dei giornali. Anche il fatto, il processo alla Leopolda, così il format ha fatto flop. Insomma, un Renzi che viene dato anche non per non molto contento nei confronti di come è andata la Leopolda. Tra l'altro un Renzi che ha anche problemi, anche lui in famiglia. Sia il Fatto Quotidiano che il Giornale fanno delle inchieste, il Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3, il Giornale a pagina 7, di intrecci di società per cercare di capire se è vero quello che ha denunciato un consigliere toscano di Fratelli d'Italia, e cioè che l'ex presidente di Banca Etruria Rosi e Tiziano Renzi, papà di Matteo, siano in affari con alcune società. Io devo dire che a vedere pagina 4 del Giornale mi è venuto il mal di testa, perché c'è un intreccio tra il babbo Renzi e l'ex presidente dell'Etruria, e c'è un grafico che coinvolge quantomeno come nomi 15 società e 7 nomi di persone che si intrecciano secondo un giro di scatole cinesi presunte che testimonierebbero appunto il legame tra Tiziano Renzi e Lorenzo Rosi. Gian Maria De Francesco racconta le 7 società che legano il babbo di Renzi all'ex capo di Etruria, tutte incrociate, tutto un gioco veramente intrecciato. E così il Fatto Quotidiano a pagina 2-3 fa un'inchiesta simile con nomi, insomma bisogna approfondirla bene, nomi, cognomi, società, partecipazioni, quote. Alla fine bisogna capire se c'è questo intreccio oppure no, ma cose, tutte cose che Mauro Meazza vedrebbe con uno sguardo e direbbe: toh, ecco qua, 15 società, 7 intrecci, alle 5 e mezza del mattino ti spiego tutto, vero Mauro? Ma certamente, chiamami quando vuoi. Buongiorno, alle 5 e mezza per l'appunto. Alle 5 e mezza va benissimo, anche 5 e 25 se vuoi, così abbiamo tempo, più tempo per chiacchierare. Senti, non è così intrecciato, forse più intuitivo e semplice quello che riportiamo a proposito delle banche in dissesto, con il contributo di Moria Longo, che analizza quanto convenivano queste obbligazioni subordinate. Sai che spesso si dice: beh, ma rendevano molto, quindi si sapeva che erano rischiose. Non è esattamente così. Come spieghiamo su Sole 24 Ore oggi, come spiega Moria Longo, potevano esserci anche dei rendimenti abbastanza bassi per titoli invece rischiosi, quindi un aspetto che finora non è stato forse particolarmente evidenziato. Ah, poi mi sembra che ne parlino anche a Radio 24, comunque a cuori e denari. Vabbè. Questa mattina parleranno. E ci sarai anche tu? No, non credo. Perché ogni tanto vieni qua, io ti faccio le boccacce mentre sei in onda per cercare di distrarti, ma tu non... Infatti per quello che vengo raramente, perché vedo che non sono ben accolto. Riportiamo naturalmente anche queste richieste del manifesto della tutela del risparmio per una maggiore trasparenza e consapevolezza nella sottoscrizione degli investimenti. Le riportiamo anche oggi proprio nella pagina di cui ti stavo parlando. Oh, mi stai trascurando la stabilità? No. La legge di stabilità? No. No, ecco, non ti distrarre, perché allora, come riferiamo oggi, seguendo passo passo le novità che arrivano, punta anche la possibilità del leasing, leasing agevolato per acquistare la casa, quindi sì, una forma alternativa. Te lo spiegano bene Davide Colombo e Marco Rogari. Nella pagina successiva, che non è la 4, perché non so, ieri sai che parlavamo molto della pagina 4, siamo un po' più oltre, parliamo della legge di stabilità, parliamo anche delle modifiche per quanto riguarda le pensioni, la legge di stabilità, ma poi andando più avanti naturalmente troverai anche una buona notizia, diciamo l'Expo ha portato a Milano 1 milione di turisti in più, lo riferiscono le pagine di Impresa e Territori. E poi ti vorrei naturalmente richiamare un attimo la tua attenzione religiosa, naturalmente, sulle pagine di Norme e Tributi, dalle quali sei composto? Sì, composto? Sì. Mi sono un po' messo sull'attenti. Ecco, dalle quali ricaverai una cosa molto importante, tu non ne comprendi l'importanza, ti assicuro che lo è, il dato del TFR di novembre. Ah. Qui Radio Fisco. Qui Radio Fisco. È un po' che mancava a Radio Fisco. Abbiamo il dato del TFR di novembre. Oh, e poi naturalmente c'è questa vicenda della difficoltà per le casse di previdenza dei professionisti di incassare i contributi causa crisi. Mm. E allora le misure alternative, l'inchiesta con cui apriamo le pagine di norme tributi proprio dedicata alle misure alternative che le casse stanno mettendo in atto. Ne parla Federica Micardi, leggi che ti farà bene. C'è Meazza e non sono ancora Nogarole Rocca. Attenzione, fustigazione in arrivo per un ascoltatore, scusa. Sono molto dispiaciuto per lui. Ma questa cosa che io faccio da metronomo all'esistenza di ascoltatori. No, ma è straordinario, perché c'è anche salutami Mauro Meazza, l'ho conosciuto ieri. Ma allora perché lo devo salutare? Comunque Alessandro dei Poste Italiane ti saluta. Devo dire, molti mi dicono anche mi saluti Alessandro Milan, sì. Quindi ricambio senz'altro. Ho capito, ma l'ho conosciuto ieri, allora l'ha già salutato caro Alessandro, però lo salutiamo anche oggi a Mauro Meazza. Salutiamoci tutti quanti, ma no, aspetta, perché prima di salutarci in realtà volevo molte altre cose vorrei dirti, ma ti dico solo questa allora. Lo sai che potresti anche parcheggiare davanti al box? Ah sì? Perché c'è stata una sentenza. Al tuo box, ovviamente, del proprio box, naturalmente. Sì, certo. E ne parliamo nelle pagine di condominio. Ah, di condominio. Perché oggi è martedì. Leggi pure, perché ti parlo di automobili in questo momento? Perché è il momento. Traffico! Alessandro Milan, il Sinisa Mihajlovic dell'informazione. Oh mamma! Mannaggia, cara ascoltatrice, grazie. Insomma, mi stai annunciando che sto per perdere il posto di lavoro. Ma no, ma io so che l'avrà detto con un altro spirito. Grazie, cara ascoltatrice. Allora, come racconta invece sempre sul Sole 24 Ore, così come su tutti i giornali, nella pagina di Finanza e Mercati, c'è da raccontare anche di Pininfarina che passa a Mahindra, il colosso asiatico. Ha rilevato infatti il 76% di Pincar, che controlla Pininfarina, e dunque, come racconta Filomena Greco, è un punto di svolta per Pininfarina dopo 10 anni difficili. Queste le parole di Paolo Pininfarina all'annuncio ieri dell'accordo con gli indiani del gruppo Mahindra, che acquisiscono il 76% della società, garantendo 20 milioni di ricapitalizzazione e promettendo di fare di un marchio storico del design italiano una realtà globale. C'è il commento di Valerio Castronovo su questo capitolo di storia dell'industria italiana, che però evidentemente non si chiude stando alle parole, se saltiamo sulla stampa, dello stesso Paolo Pininfarina, che qualche battuta la concede a Marina Cassi. E il presidente della società dice: so e sono certo che mio nonno e mio padre approvano. E tra l'altro assicura: Pininfarina rimane totalmente italiana. Io resto presidente, il management resta. Restano il nostro DNA, la nostra storia. Manteniamo stile, design, talenti, ingegneria, capacità. Voglio che non ci siano dubbi: la Pininfarina resta italiana. Il marchio, le competenze, le collaborazioni restano in Italia. Allora, che cosa vi porta l'arrivo di Mahindra? Abbiamo avuto negli ultimi 10 anni problemi. È stata una traversata del deserto dovuta a difficoltà finanziarie, a un'insufficiente penetrazione in alcuni mercati del mondo. E dunque, insieme a Mahindra, affronteremo i mercati globali. Loro con i loro 800 clienti, noi con i nostri 150. Saremo in grado di servire meglio quelli che già abbiamo e di conquistarne altri. Dunque, ci sono tutti i dettagli di questo passaggio importante. Se guardiamo a livello internazionale, Obama ha parlato dicendo: stiamo colpendo duro l'ISIS, ma dobbiamo muoverci più in fretta. Tra l'altro ha chiesto agli alleati, tra cui l'Italia, di fare di più. la stampa invece la mette così: l'Italia è stata elogiata da Obama, tanto che in un retroscena di Fabio Martini a pagina 3 c'è la soddisfazione di Renzi. Vedete, non siamo deboli sulla scena internazionale come si racconta. In ogni caso, Obama invita a fare anche di più nei confronti dell'ISIS, invitando anche ovviamente a fare ciò tutti gli alleati. Se invece rimaniamo sull'inchiesta che ieri ha portato alla luce il giornale, anche oggi ci sono degli sviluppi. Il giornale ieri ha raccontato che ci sono delle plusvalenze sospette sulle quali la Procura di Roma vuole indagare per un apporto alla Guardia di Finanza fatte dalla finanziaria Romed di De Benedetti. Banche De Benedetti, vertice dai PM, questo è il titolo di prima pagina del giornale. E si racconta nella pagina 2 di Camilla Conti quelle azioni cresciute del 57% tra rumors, annunci e decreti. Una bomba finanziaria, racconta il giornale, rivelata proprio da noi ieri, tutta contenuta in 30 pagine, in cui la Guardia di Finanza descrive movimenti borsistici sui titoli di quattro banche popolari realizzati dalla cassaforte finanziaria di Carlo De Benedetti. Questo sta nell'informativa delle Fiamme Gialle. E lì c'è anche la sintesi delle conversazioni telefoniche tra l'ingegnere e i suoi operatori sulla movimentazione di titoli per 5-6 milioni di euro, che ha portato a una plusvalenza realizzata di circa 600.000 euro. Ovviamente su questo si indaga. Anche la notizia che ieri è stata diffusa dal giornale è finita anche sugli altri giornali, come Il Messaggero oggi è da ampio risalto a pagina 5, Faro Consob su De Benedetti. A proposito però di Guardia di Finanza, questa invece è una notizia che non è molto lusinghiera per la Guardia di Finanza. Viene raccontata da Libero a pagina 15. Eccola qua, i concorsi truccati, così i finanzieri truffavano i finanzieri. Claudio Osmetti, tre marescialli delle Fiamme Gialle sono finiti in manette con l'accusa di aver truccato il concorso 2015 per sottufficiali della Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Napoli, i finanzieri, due in servizio a Napoli e uno a Roma, chiedevano soldi a ragazzi e familiari per agevolare l'iter di accesso di alcuni candidati. Insomma, finanzieri che truccavano i concorsi per finanzieri, questa è l'accusa. Signora, questa è una cosa normale, qui tutto il sistema è corrotto, dicevano alla madre di una ragazza, per esempio, chiedendole sull'unghia 1.500 euro per far superare i test alla figlia. Tra l'altro, molte di queste persone, alcuni sono arrivati a pagare 50.000 euro per partecipare al concorso dei finanzieri, e molti di questi hanno pagato dei soldi e manco hanno partecipato a questo concorso, manco l'hanno vinto. Quindi, truffati, gabbati, cornuti e mazziati. Questa la faccio vedere in diretta su Periscope, su Libero. Ma sempre su Libero rimaniamo per la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali non è l'intervista a Richard Gere, dai donne, che c'è un po', ma è ancora un sex symbol Richard Gere, ormai non più, ormai si guarda a carne fresca, un po' più fresca. E allora si inizia con Sanremo, mezza pagina di Claudia Casiraghi su Libero per il nuovo Sanremo, tutto talent, tutto X Factor, sotto il talent niente. Ma chi se ne frega!